Grazie, facciamo un applauso a tutti i ragazzi che si occupano di questo, che vengono qui dalle 8:30 e si impegnano per noi. La mia voce è ritornata, io ci sono e siamo pronti. Questa mattina ritorniamo, ci riimmergiamo nella nostra avventura attraverso il libro degli Atti degli Apostoli. Non so se vi ricordate, avevamo lasciato l'ultima volta a novembre la nostra storia e ci eravamo fermati nel capitolo 9 del libro degli Atti. Per quanti hanno dimenticato, ci sta, c'è sempre YouTube dove possiamo andarlo a vedere e ricordarci la parte prima. E la volta scorsa abbiamo visto e abbiamo imparato come la parola di Dio, e io stamattina ho portato tipo il cimelio, no? La mia prima Bibbia che io ho comprato nel lontano 2002, che è tutta scarabocchiata con la copertina di jeans, no? Era un po' ancora ragazzo allora, giovane, e mi piaceva fare queste cose. E abbiamo visto la volta scorsa come la parola di Dio non è una semplice scatola che noi possiamo aprire e tirare fuori quelle promesse per noi. Abbiamo visto come non è un manuale di istruzioni che io devo sfogliare e devo capire le regole per vivere una vita migliore. Ma abbiamo visto e imparato come la parola di Dio ci racconta una storia. E l'abbiamo scritta un po' insieme, se vi ricordate. Abbiamo visto che la parola di Dio ci racconta una storia che ha avuto un inizio con la creazione del cielo e della terra e che avrà una fine con la creazione di un nuovo cielo e di una nuova terra. E abbiamo visto che questa storia ci parla della missione di Dio, del suo piano per raggiungere un mondo rotto dal peccato, dalla disubbidienza, dalla ribellione, dall'odio, un piano di salvezza che trova il suo culmine con la venuta di Gesù Cristo, che è sceso, è morto, è risorto e ha distrutto il potere della morte. E ha affidato a noi, che siamo la sua Chiesa, e c'è l'altro effetto speciale, ha affidato a noi, che siamo la sua Chiesa, la missione di continuare a portare avanti quello che era il suo piano di salvezza. Ora, in tutto questo, noi, che siamo la sua Chiesa, riempiti dello Spirito Santo, siamo resi capaci di portare avanti quella missione e quel piano di salvezza che lui aveva preparato per l'intera umanità. E la nostra storia della nostra vita diventa un piccolo tassello di una storia molto più grande. Ed è incredibile di come quando viviamo la parola di Dio come una storia che ha avuto un inizio con una creazione e che finirà con una nuova creazione, il tutto incentrato sull'opera di redenzione e di salvezza che Gesù ha fatto e della missione che lui ha affidato a noi, allora noi comprendiamo qual è il nostro posto su questa terra nel piano che Gesù ha. E questo piano di salvezza che lui ha è un grande, universale, cosmico piano di salvezza. E la cosa incredibile è che questa storia è iniziata molto tempo prima che io e te potessimo nascere e potessimo entrare a farvi parte, e continuerà ancora per molto altro tempo ancora, fino a quando Gesù ritornerà, anche quando io e te non ci saremo più. E in tutto questo, il piccolo tassello della nostra storia avrà aggiunto valore e significato al piano di salvezza che Gesù ha per l'intera umanità. Quando io penso a tutto questo e penso alla mia vita e penso alla nostra vita, le mie rotelle del cervello si fermano un po', no? Non riescono a girare bene bene, perché è così grande, è così eterno, è così immenso. E così è stato per Saulo. Se ci ricordiamo, ci siamo lasciati in Atti 9, dove Saulo incontra Gesù. E questa mattina io voglio rivedere con voi la sua storia e la sua testimonianza di come lui ha incontrato Gesù e ha iniziato a correre per lui. Perché noi possiamo imparare dalla vita di Saulo a correre la nostra corsa per scrivere la nostra storia che dia valore e significato alla missione che Dio ha di salvare l'intera umanità. Vi piace? Vogliamo farlo? Ora, negli Atti degli Apostoli leggiamo per ben 3 volte la testimonianza di quello che accade quando Saulo incontra Gesù. E lo abbiamo visto in Atti 9 in maniera discorsiva, dove l'autore del libro degli Atti, Luca, ce lo spiega come se stesse raccontando una storia. Successivamente leggiamo la testimonianza delle testuali parole che Paolo afferma prima nel capitolo 22 di Atti e poi nel capitolo 26 di Atti, davanti al tribuno a Gerusalemme quando è stato accusato dal popolo e doveva dare una difesa a se stesso, e poi davanti al re Agrippa a Cesarea. E questa mattina andremo a rivedere dalle sue parole come lui ha incontrato Gesù, come se lui stesse qui, come se l'avessimo invitato Paolo, alias Saulo, e lui fosse venuto qui, avesse preso il microfono e avesse iniziato a raccontare di quello che è accaduto quando su quella via di Damasco lui ha incontrato Gesù. Il titolo del messaggio di questa sera è «Noi corriamo come Saulo». E fa strano, no? Perché noi tutti quanti conosciamo Paolo e non parliamo quasi mai di Saulo. Ma è Saulo che Gesù ha incontrato. È Saulo che Gesù ha scelto. Ed è a Saulo che Gesù si è rivelato. E io sono convinto che la sua storia e la sua testimonianza e questo incontro ha qualcosa di unico e speciale che lo Spirito Santo vuole rivelare al nostro cuore. E io voglio pregare per noi questa mattina, perché andando ad aprire la sua parola, andando a leggere quello che è la sua testimonianza, noi possiamo essere sfidati e lo Spirito Santo ci possa dare quello di cui noi abbiamo bisogno. Perché Dio ci chiama nel posto dove noi siamo, per portarci da un'altra parte. E quanto è difficile vederti nel posto dove Gesù ti vuole portare. Quanto è difficile. No, io penso a Saulo. Cioè, se tu sei Saulo, come puoi essere Paolo? Ma soprattutto, chi è Paolo? Cioè, fino ad Atti 9 Paolo non esisteva. Come direbbero a Bari, Ciucanosh. Cioè, da dove esce? E molte volte così è per la nostra vita. Il Signore ci chiama dove noi siamo perché ci vuole portare da qualche altra parte. Ed è così difficile per noi pensarci da qualche altra parte. Perché tu ti conosci. Tu lo sai chi sei. No, io lo so chi sono. È una vita che vivo con me stesso. E tutto mo' deve succedere. E tutto mo' deve cambiare. E tutto mo' Gesù deve fare. Saulo ci racconta qualcosa di prezioso che noi possiamo prendere questa mattina e fare nostro, per correre quella corsa, scrivere la nostra storia e diventare parte di un piano di salvezza molto più grande di quello che noi potevamo pensare che la nostra vita sarebbe stata. Sì? Ci alziamo e preghiamo? E ci arrendiamo e apriamo il nostro cuore? Nel Vecchio Testamento erano soliti alzarsi in piedi e pregare prima di aprire la parola di Dio. E noi questa mattina lo vogliamo fare. Signore Gesù, grazie. Grazie perché tu ci guardi, grazie perché tu ci scegli, grazie per quello che tu hai preparato attraverso della nostra vita, grazie perché ha un valore eterno. Questa mattina vogliamo arrenderci davanti a te. Vogliamo riconoscere il nostro bisogno di te. E Spirito Santo, ti chiediamo di rivelare al nostro cuore, un cuore aperto, quali sono quelle parole che tu vuoi che noi portiamo a casa per correre la nostra corsa e scrivere la nostra storia. Una storia che dia gloria al tuo nome e che serva affinché il piano di salvezza che tu hai in mente per l'intera umanità possa essere portato avanti e possa raggiungere chi ancora non ti conosce. Per questo ti ringraziamo in anticipo, perché sappiamo che la tua parola guarda nel nostro cuore, non per giudicarci, ma per accoglierci e per amarci e per portarci nel posto in cui tu hai preparato per noi. E noi vogliamo dirti questa mattina che vogliamo arrivare lì. Non ci siamo ancora arrivati, ma vogliamo arrivare lì. e ti amiamo e ti ringraziamo, Gesù. Amen. Amen. Ci possiamo riaccomodare. Ci troviamo a Gerusalemme e Paolo è stato appena arrestato perché aveva predicato Cristo e ora si trova davanti al tribuno per difendere la sua posizione davanti a tutto il popolo che lo stava accusando. E lo leggiamo al capitolo 22, dal versetto 6. Potete seguirmi sullo schermo. Mentre qui è Paolo che già inizia a parlare e dice: mentre ero per strada e mi avvicinavo a Damasco verso mezzogiorno, improvvisamente dal cielo mi sfolgorò intorno una gran luce. Caddi a terra e udì una voce che mi disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E io risposi: chi sei, Signore? Ed egli mi disse: io sono Gesù, il Nazareno, che tu perseguiti. Coloro che erano con me videro sì la luce, ma non intesero la voce di colui che mi parlava. Allora io dissi: Signore, che cosa devo fare? E il Signore mi disse: alzati, va a Damasco, e là ti saranno dette tutte le cose che ti ho ordinato di fare. E siccome non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, fui condotto per mano da quelli che erano con me. E così giunsi a Damasco. Un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al quale tutti i giudei che abitavano là rendevano buona testimonianza, venne da me. E accostatosi mi disse: fratello Saulo, recupera la vista. E in quell'istante riebbi la vista e lo guardai. Egli soggiunse: il Dio dei nostri padri ti ha destinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua bocca, perché tu gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai viste e udite. E ora perché indugi? Alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome. Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel Tempio, fui rapito in estasi e vidi Gesù che mi diceva: affrettati, esci presto da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua testimonianza su di me. E io dissi: Signore, essi sanno che io incarceravo e flagellavo nelle sinagoghe quelli che credevano in te. Quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anche io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di coloro che lo uccidevano. Ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano tra i popoli. Punto numero uno. Noi corriamo come Saulo per diventare Paolo. Gesù ci guarda così come siamo perché lui ci vuole portare a vedere quello che possiamo. E questa mattina, mentre stavamo nel momento di lode adorazione, ho rivisto un po' la mia prima volta che sono entrato in chiesa. Non lo so, stavo pregando e Gesù mi ha fatto rivivere. E io non avrei mai immaginato, 12 anni fa, che oggi potevo essere qui a raccontarti qualcosa. Quando sono entrato per la prima volta in chiesa, in via Santa Lucia, con mia madre, e non conoscevo nessuno e non volevo vedere nessuno, e non avrei mai scommesso su di me, mai, neanche un centesimo, zero, zero sotto zero. Ma Gesù ci guarda, così come siamo, perché lui vuole portarci a vedere quello che possiamo. E lui ti vuole così come sei. Perché lui può e vuole farti vedere quello che lui può fare e quello che lui vuole fare. E quello che tu sei oggi non è quello che tu potrai domani. Perché Gesù è con te. E Saulo aveva chiaro questo. E leggendo questi versi, il verso 10 è saltato ai miei occhi, del capitolo 22. Allora dissi, è Paolo che sta parlando di nuovo: che devo fare, Signore? E il Signore gli disse: sei disposto a riconoscere Gesù quando ti parla? Saulo era sulla via di Damasco. Non gli interessava incontrare Gesù. Lui voleva uccidere tutti quelli che parlavano di Gesù. Eppure Gesù lo ha incontrato. Sei disposto tu a riconoscere la sua voce quando lui ti incontra? Sei disposto a chiedergli: che devo fare? È stato molto difficile per Saulo dire che devo fare. Lui, poi lo leggeremo nell'altra testimonianza, lui sapeva il fatto suo. E non solo gli ha chiesto che devo fare, ma è stato disposto a fare quello che Gesù gli ha chiesto di fare. E si è lasciato guidare per mano per arrivare a Damasco. La storia di questo incontro e della vita di Saulo è una dimostrazione di sottomissione. Questa storia di Saulo ci parla di come lui sapeva di non sapere. Era cosciente di sapere di non sapere. Era pronto a mettersi in discussione davanti alla parola di Gesù. Era pronto a fare quello che Gesù gli stava chiedendo di fare, non pensando di essere arrivato, non credendo di sapere già tutto, ma iniziando da capo. Saulo non aveva paura di fare conti con se stesso. Lui aveva ucciso, eh? Cioè, non stiamo parlando della nostra vita, ok? Stiamo parlando di un serial killer che aveva il permesso di andare, prenderti dove stavi e ucciderti. Saulo non aveva paura di fare conti con se stesso. Non avere paura di fare conti con te stesso. Perché Gesù li ha fatti già per te. Gesù ha già fatto i tuoi conti. Lui ha contato tutte le tue iniquità, tutti i tuoi peccati, tutti i tuoi errori, tutti i tuoi sbagli, tutte le cose che hai fatto sbagliato, tutte le cose che, non so se si può dire, tutte le cose che non sono andate, e dopo aver fatto tutti i conti, ha scelto di accoglierti. E ci ha accolto, e mi ha accolto, e ti ha accolto. Permettetemi di fare questo esempio. Quando il Saulo che vive dentro di noi ha pace nel riconoscere che Gesù lo ha accolto dopo aver fatto tutti i conti di tutte le sue iniquità, allora tu sai veramente chi sei. Allora tu sai veramente chi sei. E non hai paura di quello che Saulo è stato. E puoi correre come Saulo perché Gesù ti vuole portare a diventare Paolo. E forse la tua corsa inizia con Saulo. E forse la sua corsa è iniziata con Saulo. Ma strada facendo, nel percorso che Dio aveva preparato per lui, Saulo si è ritrovato ad essere Paolo. Gesù ci guarda così come siamo per portarci a vedere quello che possiamo. Seconda testimonianza, la leggiamo dal capitolo 26. E qui Saulo, incarcerato a Gerusalemme, non è andato bene tutto quello che è stato il processo, perché comunque lo volevano uccidere, non ci sono riusciti. L'hanno portato a Cesarea, l'hanno mandato davanti a Festo, o Festus, e lui ha parlato con lui, e quello non lo poteva uccidere. Allora è arrivato il re Agrippa con la moglie, e quindi ha detto il re Agrippa: a me, fammelo sentire a me questo tipo qua, voglio capire perché lo vogliono uccidere, che cosa ha fatto. E quindi a Cesarea, davanti al re Agrippa, Paolo, alias Saulo, racconta di nuovo la sua testimonianza, e dice così, dal verso 2, lo leggiamo. Mi fa impazzire Paolo quando parla. Re Agrippa, già me lo immagino io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, soprattutto perché tu hai conoscenza di tutti i riti, di tutte le questioni che ci sono tra i giudei. Perciò ti prego, ascoltami pazientemente. Quale sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù che ho trascorsa a Gerusalemme in mezzo al mio popolo è noto a tutti i giudei, perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppure vogliono renderne testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione io sono vissuto da fariseo. E ora sono chiamato in giudizio per la speranza nella promessa fatta da Dio ai nostri padri, della quale promessa le nostre 12 tribù che servono con fervore Dio notte e giorno sperano di vedere il compimento. Per questa speranza, o re, sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile che Dio risusciti i morti? Quanto a me, in verità pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. Questo infatti feci a Gerusalemme e avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi dei sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti santi e quando erano messi a morte io davo il mio voto. E spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare. E infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fino nelle città straniere. Mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco, con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra. E io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro recalcitare contro il pungolo. E io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per aprire i loro occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni, ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, dopo avermi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva venire, e cioè che il Cristo avrebbe sofferto, che Egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e alle nazioni. Ah, questa testimonianza mi fa un po' saltare! Punto numero 2. Noi corriamo come Saulo per servire la Chiesa. È incredibile come la persecuzione che Saulo stava facendo ai credenti, a persone come noi, che parlavano di Gesù, per Gesù era una persecuzione che lui stava facendo contro se stesso. Gesù ha dato la sua vita per la sua sposa, che è la Chiesa. E non ci sono parole che io posso aggiungere per spiegare ed esprimere il significato profondo che contiene questa affermazione. Solo lo Spirito Santo ce lo può rivelare. E lo Spirito Santo ci rivela le profondità di Dio. E lo Spirito Santo questa mattina ti vuole rivelare quel valore e quel significato che tu puoi scoprire e trovare servendo la Chiesa. Perché è la Chiesa che Gesù ha chiamato a continuare la sua missione. E tutte le storie che noi leggiamo nella sua parola di coloro che Gesù ha scelto e che lo hanno servito ci parlano di questo. Del loro servire la Chiesa per scoprire qual era la chiamata che Gesù aveva affidato loro. E non può essere diverso per me e per te oggi. Sarà così. È così. Perché Gesù ha scelto così. E io prego che lo Spirito Santo ci possa dare rivelazione di questo. Che noi possiamo tornare a casa stamattina sapendo che quel piccolo tassello della storia, della nostra vita, avrà quel valore inglobato in un piano più grande attraverso il mio servire e costruire la Chiesa per scoprire quella che è la chiamata ed è la missione che Gesù ha affidato a me. Saulo ha vissuto così. Saulo ha risposto alla sua chiamata servendo la Chiesa. E in questo modo il tassello della sua vita è diventato una parte di una storia molto più grande, che è arrivata fino a noi oggi. Perché lui è stato l'apostolo dei gentili, di tutte quelle persone che non erano parte del popolo di Israele, ma che avrebbero dovuto comunque ricevere la notizia che Gesù è morto ed è risorto anche per noi. E Saulo è arrivato a Roma, e a Roma è morto. Perché questa era la sua missione. E il suo tassello si è concluso a Roma. Ma tanti tasselli sono partiti da quello. E sono arrivati a noi oggi. E sono arrivati a te oggi. Punto numero 3. Noi corriamo come Saulo, facendo squadra gli uni con gli altri. E io voglio invitare una coppia di cui ho molta stima e che sono un grande incoraggiamento per me. E loro stanno correndo come Saulo. E io voglio ascoltare la loro testimonianza questa mattina per vedere dalla loro testimonianza quello che noi possiamo prendere per noi e imparare a correre come Saulo facendo squadra gli uni con gli altri. Li voglio invitare, li accogliamo con un grande applauso, la famiglia Pierattini. Più forte? Qui. Vi passo subito la parola. Avanti. Io? Sì, io recupero dopo. Buongiorno a tutti. Quello che voglio condividere con voi è quello che il Signore ha fatto in questo periodo con me. Era il periodo meno opportuno per accettare la sfida di partecipare a un gruppo. Sapete quello che è successo. Ma il Signore mi ha detto che era il momento giusto per farlo, per incominciare a investire per lui, nonostante il periodo che io stessi vivendo. Per chi non lo sa, ho perso papà. Quindi in quel periodo il Signore mi ha detto: devi partecipare al gruppo, devi mettere la mia parola nella tua vita, devi avere cura per gli altri, devi godere anche della cura che gli altri possono avere per te. E tutto questo, oltre che nella Chiesa, si può fare in maniera più specifica, più profonda, nel gruppo. E così è stato. Le relazioni erano una parte un po' superficiale della mia vita, anche in chiesa. Io incoraggiavo il fratello, la sorella maggiormente. Quando dovevo fare una telefonata la facevo. Quando mi ricordavo di pregare, pregavo. Però era tutto in maniera superficiale. Invece il Signore ha voluto stabilire un nuovo amore per gli altri e per Lui soprattutto. Anche perché mettersi a disposizione di Dio, quando ci si mette a disposizione di Dio, Lui si mostra in maniera diversa e tu lo senti in maniera diversa. E quindi ho sperimentato veramente la cura che io ho dato agli altri, che gli altri hanno dato a me. E quindi ho sperimentato anche una nuova voglia di leggere la parola, una nuova voglia di leggerla in profondità per cercare di capire la volontà di Dio, per poter edificare l'altro e di conseguenza anche essere edificata dall'altro. Quindi per me il gruppo è stata un'opportunità per avere guarigione interiore, per dare sostegno, per avere sostegno, per leggere di più la parola, per avere la manifestazione della parola di Dio nella mia vita e per vederla anche nella vita degli altri, dei miei fratelli e delle mie sorelle. Nel nostro gruppo non c'è un capogruppo effettivo perché tutti edifichiamo l'un l'altro, tutti ci sosteniamo, tutti parliamo, tutti ci incoraggiamo ed è una bellissima esperienza per vivere la Chiesa come una famiglia reale. E quindi lascio la parola a mio marito. Per me il gruppo ha significato un iniziare nuovamente a correre, un riprendere a correre, perché io, per chi mi conosce, tempo fa correvo, poi mi sono infortunato probabilmente e quindi ho smesso di correre. E quando l'anno scorso sono stato invitato a partecipare ai gruppi, ho pensato, forse la volta buona che mi rimetto a correre. E in Giacomo 4, verso 8, credo, è scritto che se ti avvicini a Dio, allora Dio si avvicinerà a te. E io credo che anche Paolo, sebbene lui perseguitasse, probabilmente quello è il suo modo di avvicinarsi a Dio. E a un certo punto Dio si è avvicinato a Paolo e l'ha cambiato. E così è stato. Io mi sono riavvicinato a Dio attraverso il gruppo e il Signore ha ripreso e si è riavvicinato a me. E quindi oggi posso testimoniare che ho accettato di nuovo la sfida di essere capogruppo e quindi di essere quel leader che il Signore voleva che io sia. Perché in realtà, cari fratelli, io mi sono nascosto, ma in realtà non puoi sfuggire al destino che Dio ha per te. E se Dio ha definito per te un qualcosa, puoi solo ritardare il tempo che puoi dedicare a Dio, ma prima o poi Dio ti riprenderà per le orecchie, per tutto quello che hai, e ti rimetterà al posto dove Lui ti ha destinato. Per cui il mio invito è non perdere tempo, perché Dio ha tanto da fare con te, soprattutto per gli altri, soprattutto perché la nostra Chiesa ha bisogno del tuo impegno. Grazie. Sono e gli uni con gli altri che noi possiamo correre come Saulo e diventare Paolo. E così lo abbiamo letto nella sua testimonianza, affidandoci a chi è al nostro fianco, che ci prende per mano e ci porta dove Gesù vuole che noi dobbiamo arrivare. Fidandoci forse di Anania, che viene a casa e che vuole pregare con me e che vuole incoraggiarmi e che vuole sostenermi, che vuole portare guarigione nella mia vita affinché io possa ritornare a vedere. E gli uni con gli altri che noi possiamo correre come Saulo per servire la Chiesa. E lo abbiamo letto nelle testimonianze di Saulo, ospitandoci, come Saulo è stato ospitato a Damasco. Io non credo che fosse stato facile ospitare Saulo, no? Quando te lo vedi arrivare a casa tua e lui si presenta, chi sei? Piacere, sono Saulo. Ah, forse volevi citofonare al vicino? Io non ne so niente, Gesù non lo so chi è, eh? Io non li ho visti a questi. Ospitandoci, come Saulo è stato ospitato a Damasco, è stato ospitato a Gerusalemme, è stato ospitato di casa, in ogni città e in ogni posto dove lui è andato. E gli uni con gli altri che noi possiamo correre come Saulo per servire la Chiesa, incoraggiandoci come Saulo è stato incoraggiato da Anania, che sicuramente avrà speso delle belle parole con tutti i credenti di Damasco affinché potessero accoglierlo nelle loro case. È stato incoraggiato da Barnaba quando poi è andato a Gerusalemme e gli apostoli avevano paura di lui e nessuno credeva che lui avesse veramente incontrato Gesù. E Barnaba ha messo la buona parola per lui, perché Barnaba l'aveva conosciuto e l'aveva incontrato di persona. E gli uni con gli altri. Ed è stato così di guarigione 2 settimane fa con mia moglie andare al gruppo familiare, dove abbiamo potuto vedere quello che era il messaggio della domenica. Avevamo parlato della festa del papà, credo che tutti abbiamo avuto il gruppo familiare in quella settimana, ed è stato così bello rivedere quello che era il messaggio che Gesù ci voleva dare, gli uni con gli altri. Abbiamo pregato gli uni per gli altri, abbiamo aperto il nostro cuore parlando dei nostri papà, parlando di come vediamo Dio come padre. È stato un modo per elaborare quello che Gesù ci aveva detto. E abbiamo pregato l'uno per l'altro. Abbiamo ricevuto guarigione, l'uno attraverso le parole dell'altro. E oggi siamo qui, pronti a correre ancora per arrivare nel posto dove Gesù ci vuole portare. E non siamo soli. C'erano Marianella, c'era Noemi, c'era il pastore Pinuccio e Sofia, che erano con noi nel pregare tutto questo al gruppo. E noi poi ci siamo visti con Roberto e Fabrizia, con Roberta e Fabrizio, con Saverio Stefania, con Laura e Chicco, con Mary, Romina, abbiamo condiviso con loro, abbiamo pregato con loro. E io so che Roberto, che Fabrizio e Roberta si sono visti con Roberto, ecco perché mi veniva Roberto, e Katia, e Lidia e Davide, e Francesco e Sissi, e hanno pregato con loro, gli uni con gli altri. Ed è così che noi siamo una famiglia. Ed è così che noi costruiamo quelle relazioni reciproche all'Elon di cui il pastore ci ha predicato. È così che il tassello della nostra vita diventa un piccolo tassello di una storia molto più grande, che parla della missione di Dio e del suo piano di salvezza per l'intera umanità. E noi possiamo farne parte, noi ne facciamo parte. Preghiamo? Ci alziamo in piedi? Oggi abbiamo la cena del Signore e io credo che è un'occasione per te per rivedere quel sacrificio che Gesù ha fatto e scoprire chi sei veramente e vivere in pace con te stesso per chi tu sei, perché Gesù ha già fatto i conti e bastano i suoi. Lui li ha fatti perché tu non dovevi farli. Guarda i suoi conti che ha fatto per te. Preghiamo? Signore Gesù, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché tu sei un Padre che ci ama, che ci guarda così come siamo per portarci a vedere quello che possiamo. E Spirito Santo, io ti chiedo questa mattina di rivelare al nostro cuore, in questo tempo ancora che ci rimane, la tua verità, che noi possiamo prenderla, che noi possiamo riceverla, che noi possiamo accoglierla, così come tu ci hai accolto. E ti ringraziamo per chi tu sei e perché ti abbiamo nella nostra vita. Grazie Gesù. Amen.